sulle fredde rotaie del tempo investirò un amore fragile. Quando tutto finirà, sarà terra di Dio, di Dio. Cerco un nascondiglio, non sono braccato.